Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Ad ogni salto della potenza dei supercomputer si apre una nuova finestra e diventano accessibili problemi che prima non potevano essere affrontati con un calcolatore. L'imminente salto all'esoscala, con performance di calcolo che supereranno di almeno un migliaio di volte quelle dei migliori supercomputer attuali, è uno di quei salti appunto nella potenza di calcolo da cui ci si aspetta molto. Ne è convinta Elisa Molinari del CNR Nanoscienze e dell'Università di Modena Reggio Emilia. Elisa Molinari dirige il centro europeo Max Materials at the Exoscale, con sede a Modena, che è anche uno degli 8 centri di eccellenza individuati dall'Unione Europea per le proprie strategie di mantenimento dell'eccellenza nel campo considerato strategico appunto del supercalcolo. Buonasera, buonasera Molinari. Buonasera. Senta, allora, intanto qual è questo scenario nuovo che si apre con questo imminente balzo di potenza dei computer? Uno scenario molto interessante, perché già con un fattore 50 o 100 ci si immagina di poter affrontare dei problemi che prima non si era in grado di trattare. Adesso nel campo dei materiali, che è quello su cui ci concentriamo nel nostro centro, si immagina di poter studiare delle proprietà che coinvolgono la redistribuzione della nuvola degli elettroni, che può avvenire durante un processo, anche durante un processo tecnologico, per esempio in un fenomeno di attrito o in un fenomeno che determina, che ne so, le proprietà, il colore, la conduzione termica o la conduzione elettrica di un materiale. Bene, in tutti questi fenomeni ci sono le nuvole elettroniche che possono subire dei cambiamenti che determinano delle proprietà nuove. Noi con queste potenze di calcolo saremo in grado di prevederle molto di più di quanto riusciamo a fare fino ad ora. Quindi diciamo che riuscirete a simulare quei processi che implicano anche delle reazioni chimiche importanti o complesse, mentre prima questo era un ambito che non si riusciva ad aggredire. Posso fare questo esempio per capirci. In prima noi riuscivamo a descrivere i materiali, nel caso di sistemi complessi con tanti atomi eccetera, assumendo che di dover descrivere gli atomi come delle palline legate da delle molle che ne controllavano la dinamica, e solo in casi molto speciali, sistemi molto semplici, piccoli o piuttosto semplici, riuscivamo a descrivere il comportamento di tutti gli elettroni da primi principi, come si dice. Bene, quindi dalle leggi della meccanica quantistica che descrivono. Sì, okay. Dalle leggi della meccanica quantistica. Questo fatto di usare le palle e le molle è una limitazione pesante, perché vuol dire che uno a priori si deve immaginare di sapere come interagiscono gli atomi, e le molle deve averle diciamo immaginate o indovinate o studiate a partire da altri sistemi già noti. Se uno vuole studiare un sistema di cui non si sa nulla, ha bisogno invece di partire dai fondamenti, e studiare sistemi di cui non si sa nulla è una delle frontiere che si apre con queste nuove tipi di simulazioni. Noi potremo, e in parte stiamo già cominciando a farlo, prevedere le proprietà di materiali che disegniamo noi stessi, progettare dei materiali che abbiano certe proprietà, anche materiali che non sono già noti e i cui parametri quindi non si sanno. C'è un precedente, qualcosa di simile, che è già accaduto in passato in corrispondenza di un salto di scala della potenza del supercalcolo? Ma io direi forse l'esempio più famoso è quello della fluidodinamica, cioè la possibilità di descrivere il comportamento dei fluidi, compreso il comportamento in presenza di vortici e cose del genere, attraverso le simulazioni al calcolatore. Questo tipo di simulazione ha di fatto consentito di ridurre moltissimo gli esperimenti, per esempio fatti in galleria del vento per l'aerodinamica dei veicoli, oppure ha consentito di arrivare a simulare il comportamento dei fluidi, ad esempio nel vaso aortico. Certo. O comunque nuove classi di simulazioni che prima non erano completamente per niente possibili. E anche lì è successo perché si è potuto utilizzare le equazioni della risolvere veramente le equazioni della fluidodinamica, anziché fare qualcosa che ci assomigliava facendo dei modelli, no? Sì, è proprio stata la capacità di simulare anche su una scala molto più fine che ha reso la descrizione molto più realistica. Quello che si dice di solito è che la possibilità di fare delle simulazioni accelera moltissimo il tempo per sviluppare l'innovazione. Invece di dover immaginare di fare esperimenti in galleria del vento, uno fa prima un set di seleziona un set di modelli possibili e solo alcuni poi li va a validare. Lo stesso nel drug design, invece di provare milioni e milioni di molecole. Molecole, uno ne può scegliere alcune con la simulazione e poi andare a validare in laboratorio solo le più rilevanti. Bene, grazie per intanto professoressa Molinari, ma ci risentiamo domani perché c'è una nuova prospettiva a livello europeo che riguarda questo mondo del supercalcolo. Volentieri, grazie. E allora a voi tutti in ascolto, buona serata e appuntamento a domani.